benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat a questa nuova puntata di Soul Time. Iniziamo questa puntata con un gruppo che si chiamavano The Contours. I Contours sono stati uno dei primi gruppi musicali vocali afroamericani di musica soul, doo-wop e rhythm and blues con base a Detroit nel Michigan. È stato un gruppo scritturato dalla Motown Records. Nel 1962 è stato in vetta nella classifica Billboard Hot 100 con il brano Do You Love Me, il cui singolo è stato venduto in circa 1 milione di copie. A fondarlo nel 1959 erano stati Joel Billingsley, difficilissimo da pronunciare almeno per me, Bill Gordon, Bill Oggs e Billy Rollins, che chiamarono inizialmente la band The Blenders. A queste si aggiunsero presto Leroy Fair in luogo di Billy Rollins e il cantante Hubert Johnson. Con l'avvento poi di Huey Davis il gruppo diventò un sestetto e cambiò il nome in The Contours. Nell'autunno del 1960 il gruppo fece un'audizione per Berry Gordy della Motown Records, che dopo un primo rifiuto li pose poi sotto contratto per un primo periodo di 7 anni. La musica del gruppo, che collaborò spesso anche con Marvin Gaye e Smokey Robinson, piccola nota di colore, è stata anche inserita nella colonna sonora tributo del film musicale Dirty Dancing. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo super pezzo dei Contours che si intitola Baby Hit and Run, The Contours. That everybody knows. You fall in love and you feel the world, but soon you'll be looking for a long, long girl. She fill you up and then she let you down. The days are numbered that she'll be around. She keep you hoping for a long, long while, and then she'll leave and have a satisfied smile. No matter what you say, she'll soon be on her way. Around the bend, another heartache gonna soon begin. She'll be hidden in a pleasant sky, and when she's gone, there'll be tears in your eyes. Give her your love and you don't hold back, and then you find out her love will just panic. To her, your love is like a silly game. She's like a tiger that can't be tamed. She never stays in one place very long. She's gone. Doesn't matter what you say, she'll soon be on her way. She calls my baby and then run. Now listen at her. There she goes, she's done it again. Broke the heart of an innocent man. She's wanted for heartbreak all over this land. When it comes to the heart, she breaks it many as she can. And you get it away. Whenever she's around, she sure don't measure. She just runs you down. Stop that girl, don't let her get away. If you don't stop her, she'll get you someday. She calls it mine. Yes, it's mine. She calls it mine. E questi erano i The Contours. Proseguiamo quindi da un gruppo di scuola Motown a ad un gruppo che è nato direttamente a Detroit, quindi strettamente legato fin dalla nascita proprio alla Motown Records. Sono i Four Tops, un quartetto statunitense vocale il cui repertorio include brani doo-wop, jazz, soul, R&B fino ad arrivare alla disco. Fondati appunto a Detroit, inizialmente con il nome di The Four Ames, il principale cantante Levi Stubbs, insieme ad Abdul, Duke, Fakir, Renaldo, Obi Benson e Lawrence Payton, sono rimasti in attività per 4 decenni e nel 1999 sono stati inseriti nel Vocal Group Hall of Fame. Come ricordavo in qualche puntata fa di Soul Time, i Four Tops sono stati uno dei gruppi che aiutarono a definire proprio riconoscibile in tutto il mondo lo stile musicale della Motown. Quindi ci andiamo ad ascoltare quest'altro grandissimo brano dei Four Tops che si intitola Have a Little Faith. I Four Tops con Have a Little Faith. Proseguiamo la selezione musicale con Gladys Knight. Gladys Maria Knight, nata nel 1944 ad Atlanta, ed è una cantante rhythm and blues e soul statunitense, nota soprattutto per i suoi successi durante gli anni 60 e 70 con le etichette, per l'appunto ritorna spesso in questo programma, che scaletta non ha con la Motown Records appunto e la Buddha Records, insieme al suo gruppo Gladys Knight and the Pips, di cui fecero parte al massimo del successo anche suo fratello Merald Knight e i suoi cugini Edward Patton e William Guest. Quindi ci ascoltiamo You Have Lost That Loving Feeling, Gladys Knight e appunto And the Pips. You never close your eyes. Gladys Knight and the Pips con You Have Lost That Loving Feeling. Quindi il prossimo pezzo già pronto è un pezzo di Frankie Valli, nome d'arte di Francesco Stephen Castelluccio, nato a Newark nel 1934, un cantante statunitense famoso per essere stato il frontman dei The Four Seasons. Francesco Stephen Castelluccio, appunto, nacque a Newark, come si può intuire, in una famiglia italiana. Suo padre svolgeva l'occupazione di barbiere, mentre sua madre lavorava presso un birrificio. Fu ispirato a diventare un cantante all'età di 11 anni, dopo che sua madre lo accompagnò al concerto di un giovanissimo Frank Sinatra al Paramount Theater di New York. Il suo primo mentore fu il cantante Texas Gene Valley, il quale ispirò il suo nome d'arte. Castelluccio, tra l'altro, svolse come il padre il lavoro di barbiere fino a quando non riuscì ad autofinanziarsi con gli introiti del mondo della musica. Quindi ci ascoltiamo Frankie Valli con questo pezzo che si intitola Thank You. Until I met you, baby, there were no blue skies. But since you came into my life, everything has been so very nice. Thank you for loving me. Thank you. Frankie Valli con Thank You. Il prossimo brano è un brano di Tammy Terrell, pseudonimo di Thomasina Winfred Montgomery, nata a Filadelfia nel 1945 e scomparsa prematuramente sempre a Filadelfia nel 1970. È stata una cantante statunitense nominata anche per un Grammy Award e principalmente celebre per la sua appartenenza all'etichetta Motown, e la sua carriera è stata indissolubilmente legata appunto ai duetti con Marvin Gaye. Iniziò Tammi Terrell la propria carriera fin da adolescente, lavorando per le etichette Scepter Records, Wand Records, Try Me e Check Records, mentre nel 1965 firmò proprio un contratto con la Motown Records, ottenendo un modesto successo anche come cantante solista. La Terrell ottenne notevole popolarità duettando con Marvin Gaye a partire dal 1967, di cui si ricorda sicuramente il brano più famoso, Ain't No Mountain High Enough. È scomparsa nel 1967 perdendo i sensi proprio durante un concerto tra le braccia di Marvin Gaye, che dopo la sua morte sospese la carriera per 2 anni. Quindi ci andiamo ad ascoltare la grande voce di Tammi Terrell con questo pezzo che si intitola Tears at the End of a Love Affair. Tammi Terrell. At the End of Love Affair di Tammi Terrell, mentre è già pronto un brano dei Reflection. I Reflection sono stati un gruppo di Detroit nel Michigan di soul e doo-wop, la cui la il cui principale brano del 1964 era quello che stiamo per andare ad ascoltarci, Just Like Romeo and Juliet, scritto da Bob Hamilton e Freddie Gorman e stampato su etichetta Golden World Records, e ha riscosso anche un ottimo successo all'epoca, arrivando addirittura al sesto posto della Billboard Hot 100 Charts. Quindi ci ascoltiamo Just Like Romeo and Juliet, The Reflection. Con Just Like Romeo and Juliet. La prossima artista che voglio presentarvi è un'artista inglese, Kiki D, nome d'arte di Pauline Matthews, appunto una cantante britannica conosciuta tra gli addetti ai lavori fin dall'inizio degli anni 60 come corista e interprete di cover alla radio della BBC, e accompagnò cantanti famosi come Dusty Springfield. Solo nel 1965 cominciò ad incidere come solista ed ebbe un discreto successo con il singolo Why Don't I Run Away From You, mentre noi ci andiamo ad ascoltare un altro brano che si intitola The Day Will Come Between Sunday and Monday. Piccolo aneddoto, piccola curiosità, proprio nel 1965 Kiki D partecipò anche in Italia al Festival di Sanremo, dove in coppia con Fred Bongusto interpretò il brano Aspetta Domani, arrivando quarto. Quindi dopo aver citato il Festival di Sanremo, di cui ci importa il giusto, però appunto come aneddoto di colore ci sta, ci ascoltiamo questo brano di Kiki D che si intitola The Day Will Come Between Sunday and Monday. Gets The Day Will Come Between Sunday and Monday. Il prossimo brano già pronto è un brano di David Ruffin, all'anagrafe David Eli Ruffin, scomparso a Filadelfia nel giugno del 1991, conosciuto soprattutto per aver militato nei Temptation tra il 1964 e il 1968, mentre nel 69 intraprese la carriera solista. Ed è proprio un brano da solista di David Ruffin che ci andiamo ad ascoltare, che si intitola You Can Come Right Back to Me. David Ruffin. David Ruffin con You Can Come Right Back to Me. Quindi proseguiamo con le Sisters Love, un gruppo americano R&B e funk attivo tra il tardo di tardi 1900 anni 60, scusate, i tardi anni 60 e i primi anni 70. Le Sisters Love si unirono nel 1968 da alcuni membri delle The Relettes, che era un gruppo formato tra l'altro da cantanti che facevano da spalla alle incisioni e ai live di Ray Charles. Il loro singolo più conosciuto, che si intitola I'm Learning to Trust My Man, è una hit assoluta della scena Northern Soul. Fu stampato nel 1973, ma appunto essendo diventato molto molto famoso in ambito Northern Soul, fu ristampato su etichetta Tamla Motown nel 1975, proprio 2 anni dopo l'incisione originale su etichetta Mo West Release. Quindi ci ascoltiamo le Sisters Love, scusate, con il brano I'm Learning to Trust My Man. You ain't gonna leave me. Il prossimo pezzo è di un gruppo che ormai qui a Soul Time non ha certamente bisogno di presentazioni. Ci andiamo ad ascoltare Martha Reeves and the Vandellas con Baby, Don't You Leave Me. Don't you leave me. questa erano Martha Reeves and the Vandellas con Baby Don't You Leave Me. Proseguiamo con gli Isley Brothers, un gruppo musicale statunitense nato negli anni 50, di grande successo e influenza grazie ai loro lavori R&B and Soul. E il gruppo nella sua formazione più estesa era costituito dai sei fratelli Brothers, quindi sei fratelli più loro cognato. La loro storia iniziò nel quartiere Lincoln Heights, nella città di Cincinnati, in Ohio, e iniziarono a cantare musica gospel. Ci ascoltiamo questo pezzo degli Isley Brothers che si intitola My Love Is Your Love, tra parentesi, Forever the Isley Brothers. Erano gli Isley Brothers con My Love Is Your Love Forever. Come tutti gli ascoltatori, o la maggior parte degli ascoltatori di Radio Wombat sapranno, questa domenica è scomparso Lorenzo Bargellini. Volevo chiudere la puntata con le sue parole, che sono sicuramente molto molto meglio delle mie e delle mie inutili chiacchiere. Vi saluto e ci sentiamo la prossima puntata, mercoledì prossimo alle 19 su Radio Wombat con Soul Time. Allora, qui c'è un microfono aperto, invitiamo tutti i rappresentanti dell'opposizione sociale a venire a questo microfono. Lo ripetiamo, la manifestazione è pacifica, per cui non c'è nessun motivo di preoccupazione. Il problema è che non tolleriamo che Piazza Signoria sia vietata ai movimenti. È una piazza che ci appartiene. Se i ministri parlano sopra, noi parliamo sotto e ne abbiamo l'autorità e il diritto. Allora, diciamo anche delle cose, che da circa 5 mesi questo delirio sicuritario sta invadendo la testa e i corpi di tanta gente. Noi vogliamo la fine di questo delirio. Noi vogliamo il rispetto degli occupanti delle case. Noi vogliamo che i lavoratori vivano nei cantieri. Noi vogliamo una sicurezza che metta in libertà i diritti. Noi non vogliamo più le guerre nel pianeta. Noi vogliamo queste cose e lo diciamo in modo chiaro. Così come in modo chiaro diciamo che non siamo in vendita, che dalle nostre case non usciremo. E diciamo a tutti che questa battaglia per noi è appena cominciata.